frequenze sui generis. Innamorati del femminismo. E dopo questa lunga pausa natalizia, eccoci ritornate negli studi di Radio Città Fujiko con Frequenze sui Generis, la trasmissione che va in onda tutti i lunedì dalle 14.30 alle 15. Oggi in studio siamo soltanto due perché la nostra cara Anna ci ha lasciate, insomma speriamo solo temporaneamente, e speriamo ci stia ascoltando dalla Svezia, in cui è andata a fare l'Erasmus, e cogliamo l'occasione ovviamente per salutarla. Ciao Anna! Oggi parliamo di un tema che è stato molto dibattuto in Italia. Parliamo della lettera che è stata inviata e pubblicata su Le Monde e di cui sono state firmatarie un centinaio di donne francesi di un certo calibro, tra cui l'attrice Catherine Deneuve. Il titolo della lettera era "Difendiamo la libertà di importunare, indispensabile la libertà sessuale". È stata una lettera che ha fatto molto molto parlare di sé, quindi sarà una puntata ricca di riflessioni e contributi, ma ovviamente come in ogni puntata adesso andremo a scoprire chi ci accompagnerà musicalmente. Per questa puntata abbiamo scelto Ani DiFranco, cantautrice e chitarrista statunitense. Ani DiFranco si contraddistingue per essere un'artista molto prolifica. Pensate che ha pubblicato almeno un album all'anno dal 1990, con l'eccezione solo del 2000, pubblicando comunque tre album nel 1999 e un doppio album nel 2001. Nata a Buffalo, nello stato di New York, da madre americana ebrea e padre italo-americano, entrambi appassionati di musica folk, la DiFranco ha cominciato a suonare cover dei Beatles nei bar locali con la sua insegnante di chitarra all'età di 9 anni. A 15 anni è andata a vivere da sola, mantenendosi principalmente grazie alle sue performance musicali. All'età di 18 anni, nel 1989, ha fondato una propria casa discografica, la Righteous Babe Records, con solo $50, e ha registrato Ani DiFranco, uscito nell'inverno del 1990. Subito dopo si è trasferita nella città di New York e ha cominciato un'intensa attività dal vivo. Aderisce alla corrente delle Riot Girl, movimento femminista e radicale nato negli Stati Uniti, e molto del suo materiale è anche fortemente politico, impegnato in diverse questioni sociali come il razzismo, il sessismo, l'abuso sessuale, l'omofobia, l'aborto, la povertà e la guerra. Andiamo ad ascoltare Little Plastic Castle. In a coffee shop in a city, which is every coffee shop in every city, on a day which is every day. I picked up a magazine, which is every magazine. I read a story, then I forgot it right away. And they say goldfish have no memory. I guess their lives are much like mine. And the little plastic castle is a surprise every time. And it's hard to say if they're happy, but they don't seem much to mine. Yeah! From the shape of your shaved head, I recognized your silhouette as you walked out of the sun and sat down. And the sight of your sleepy smile eclipsed all the other people as they paused to sneer at the two girls from out of town. I said, look at you this morning, you are by far the cutest, but be careful getting coffee, I think these people wanna shoot us, or maybe there's some kind of local competition here to see who can be the rudest. Yeah. Yeah. Ed eccoci ritornate in studio. Finalmente, cara Vivi, entriamo nel vivo di questa puntata. Anticipavamo l'argomento della giornata, che sarà questa famosa lettera di cui appunto Catherine Deneuve è stata firmataria. Però è una lettera di cui forse molti hanno sentito parlare, ma non tutti conoscono i contenuti. Ce li vuoi un po' riassumere? Certo, allora la lettera, il titolo l'abbiamo già detto, no? Difendiamo la libertà di importunare, indispensabile alla libertà sessuale, che già è un titolo che insomma scatena mille interrogativi. Nella lettera si dice che lo stupro è un crimine, ma tentare di sedurre qualcuno anche in maniera insistente o maldestra non è un reato, né la galanteria è un'aggressione del maschio. E le firmatarie continuano dicendo che femminismo non significa odiare gli uomini e la sessualità. Nella lettera si condanna anche il movimento Me Too, dicendo che questo movimento ha comportato una sorta di giustizia sbrigativa. E scrivono le donne francesi: questa giustizia sbrigativa ha già fatto le sue vittime, uomini puniti nell'esercizio del loro lavoro, costretti a dimettersi avendo avuto come unico torto quello di aver toccato un ginocchio, tentato di strappare un bacio, o aver parlato di cose intime in una cena di lavoro, o aver inviato messaggi a connotazione sessuale a una donna che non era ugualmente attirata sessualmente. E quindi concludono le donne francesi che questa febbre di inviare i maiali al macello, così scrivono, lungi dall'aiutare le donne a rafforzarsi, serve in realtà gli interessi dei nemici della libertà sessuale, degli estremisti religiosi, dei peggiori reazionari. E quindi, diciamo, la conclusione è appunto quella che queste donne difendono la libertà di importunare, che ritengono indispensabile la libertà sessuale, e concludono dicendo: siamo abbastanza mature per ammettere che la pulsione sessuale è per sua natura offensiva e selvaggia, ma siamo anche sufficientemente accorte per non confondere il corteggiamento maldestro con l'aggressione sessuale. La donna oggi può vigilare affinché il suo stipendio sia uguale a quello di un uomo, ma non sentirsi traumatizzata per tutta la vita se qualcuno le si struscia contro nella metropolitana. Allora, cara Vivi, cosa pensi di questa lettera? Perché a me mi si sono già accese molte lampadine. Mi sembra che ci sia una grande confusione rispetto ai termini che vengono utilizzati, no? Perché si parla di seduzione, però poi si conclude parlando di strusciarsi contro nella metropolitana. E io faccio un po' fatica a collegare questi due temi. Nel senso, io una seduzione maldestra chiaramente la capisco, però mi fa un po' strano mettere insieme queste due cose nella stessa lettera. Cioè, di che cosa stiamo parlando allora quando parliamo di seduzione, di tentare di sedurre qualcuno? Com'è possibile infilarci dentro la mano sul culo sopra l'autobus o lo strusciamento in metropolitana? Cioè, questa veramente la si può considerare tentativo di seduzione? Vivi, mi chiedo, tu sei mai stata colpita da quell'uomo che ti ha messo la mano sul culo sul 27? Beh, non mi è mai capitato, per fortuna, però diciamo che non lo ricorderei come un tentativo maldestro di seduzione. Personalmente la lettera mi è sembrata non soltanto un'offesa alle donne e soprattutto alle donne che denunciano, ma un'offesa anche agli uomini, perché pensiamo un po' come viene dipinta la maschilità in questa lettera, come una... Gli uomini sono dipinti come appunto delle persone che non riescono a contenere il proprio desiderio sessuale e a non conoscere il discrimine tra appunto un avance e una molestia, cioè vengono un po' rappresentati come degli stupidi. È interessante, è stata proprio l'opinione anche di alcuni uomini, le reazioni degli uomini a questa lettera. A me è piaciuto in particolare l'intervento di Pierluigi Battista, un giornalista, che ha detto proprio che ha scritto: diciamocelo, noi maschi ce la cantiamo, perché in realtà lo sappiamo benissimo, per intuito, esperienza, sensazione, dove sta il confine, e il confine è il consenso. Quindi perché poi si parla di zona grigia? Perché, scrive Battista, noi maschi facciamo finta di non capire quando il no è no, e se insistiamo non è perché siamo presi da impulsi sessuali veementi e incontrollabili, ma semplicemente perché mal sopportiamo l'umiliazione del rifiuto. E questo è un tema molto importante e interessante da rilevare, che si ricollega con il discorso del potere. no? Il non accettare un rifiuto e quindi il sentimento, la sensazione di potere che alberga in questo tipo di azioni. Sempre nello stesso articolo, infatti, è proprio Battista a dire che il tema centrale è proprio l'abuso di potere, cioè lui dice: il ricatto per cui o ti adegui alle mie condizioni oppure perdi il lavoro è una roba che noi maschi dovremmo considerare con aperta ripugnanza. Ed è questo proprio il tema centrale, no? Il discorso del il tentativo di seduzione in un contesto magari di relazione, o il tentativo di seduzione all'interno di un contesto di potere, di un contesto in cui le relazioni non sono relazioni paritarie, le relazioni non permettono che un eventuale no non abbia conseguenze di qualche tipo. E a questo proposito mi è piaciuto il punto in cui Battista dice: fare i minimizzatori su questo punto è sbagliato, perché certo c'è il fascino del potere, non possiamo negarlo, ci sono delle donne che si adeguano a questo fascino, però, dice Battista, tra i diritti fondamentali c'è anche quello di non essere eroiche, di temere le conseguenze, di non sapere o di non voler prendere a ceffoni il predatore. Questo diritto è incoercibile e capirlo è indispensabile. Io sono molto d'accordo, perché anche qui molto spesso le donne vengono colpevolizzate, sia se denunciano, come se appunto fosse ama, te la sei cercata, l'hai fatto troppo tardi, eccetera, sia se non denunciano. Quindi ci fermiamo un attimo per riflettere noi qui in studio e anche lasciare un po' di tempo a voi per riflettere su queste questioni, e andiamo ad ascoltare il prossimo brano, che è Hungry Anymore. E dopo le note di Anni di Franco siamo ritornate in studio e stiamo sempre parlando, prendendo spunto dalla famosa lettera di cui è stata firmataria anche Catherine Deneuve, che tanto ha fatto parlare rispetto al concetto di confine tra molestia e corteggiamento. Stiamo parlando dell'esistenza o meno di una cosiddetta zona grigia. Cosa sarebbe questa zona grigia, Vivi? Secondo me è appunto il prodotto di un'educazione sentimentale sbagliata, plasmata da una società in cui la parità di genere non esisteva. Qualche commentatore l'ha definita così, questa zona grigia. Parlando anche di una questione generazionale, cioè ad esempio in un articolo Irene Graziosi dice che le opinioni di Catherine Deneuve e di molte sue coetanee siano frutto di una generazione di donne molto diversa dalla nostra, che pensano che appunto le donne devono stoicamente resistere. Io sono d'accordo solo in parte, nel senso che se penso alla generazione di Catherine Deneuve, penso anche alla generazione delle donne che hanno fatto gli anni 70, quindi all'ondata di femminismo, per cui non mi spiego questo intervento con un argomento generazionale. Tra l'altro, Vivi, un altro tema che mi sembra pregnante appunto all'interno di questa riflessione, come tu hai parlato all'inizio della sessualità maschile, quindi il fatto che sia una lettera che in un qualche modo dovrebbe offendere anche gli uomini che ascoltano, perché li dipinge come persone che sono soltanto, come dire, indirizzate dal testosterone e che non sono in grado di comprendere se una determinata avance è gradita oppure no. Però allo stesso tempo questa lettera offende forse anche un po' la sessualità femminile, no? Perché descrive le donne come persone passive che attendono in un qualche modo un qualche approccio, un qualche movimento da parte dell'uomo, e senza magari pensare che invece la sessualità è qualcosa condivisa e che magari potrebbe anche essere la donna quella a voler fare un gesto nei confronti dell'uomo. Infatti, se rileggiamo la lettera, queste donne chiedono di essere importunate proprio per scongiurare una morte dell'eros, come se appunto l'eros fosse l'uomo che importuna la donna. Questa è una modalità antica e possiamo dire che per fortuna questo modello è resistente, però sta anche scomparendo, nel senso che i tempi sono cambiati. Sì, sta scomparendo, però ci ricollega ad esempio Vivi al tema del catcalling, cioè delle molestie di strada, no? Anche quello è un tema che divide molto sia gli uomini ma anche le stesse donne. Quando si dice che passare per strada e sentire i fischi di qualcuno, magari la ragazzina che passa in una zona dove stanno lavorando e gli operai si sentono liberi e in diritto di poterle fischiare dietro, chiaro, non voglio fare tutto un erbo un fascio, però purtroppo è qualcosa che molte di noi hanno sperimentato, anche lì, anche quello è un tema in cui si dice, beh, ma di cosa vi state lamentando? Vi stanno facendo dei complimenti, e a volte lo dicono le stesse donne, no? Cioè è comunque qualcosa di positivo, perché è qualcuno che ti sta facendo un complimento, è qualcuno che magari sta facendo un tentativo nei tuoi confronti. Io mi dico, ma veramente la gente crede? Ci sono degli uomini che credono che dicendo "ah, bella" per strada una che sta passando, questa qua rimarrà colpita, si girerà, si fermerà, gli andrà a lasciare il numero di telefono? Io faccio un po' fatica a volte a comprendere il tema di questa zona grigia, perché sono zone che a me sembrano decisamente non grigie. A questo proposito, parlando di zone grigie, di confine tra avanze e molestie, abbiamo voluto sentire Chiara Risoldi, la nuova presidente della Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna. Sentiamo cosa ci ha detto. Buongiorno Chiara. Buongiorno. Allora, parliamo di questa lettera che è stata pubblicata su Le Monde e di cui Catherine Deneuve è firmataria. Prima domanda, qual è stata la sua reazione a caldo a questa lettera? Mi sono irritata, anche perché i titoli erano, diciamo, prendevano la parte peggiore della lettera, perché la lettera poi, letta con attenzione, era un po' confusa, ma ha una preoccupazione che è sensata. E da presidente della Casa delle Donne per non subire violenza, perché nella lettera su Le Monde si parla di questa zona grigia, no? In cui, come se il discrimine fra avanzi e molestia non fosse chiaro. Il discrimine è chiarissimo nella risposta. Se io accolgo volentieri l'avance, io dico no, e dico no basterebbe una volta, ma dico no più volte, si trasforma in molestia, se l'uomo non capisce che sto dicendo appunto no, che non mi va. Quindi non... Certo, si potrebbe aprire il discorso complicato se dico ni, ma se dico ni non sto dicendo no, allora questo deve essere un discorso molto chiaro, chi dice no, dice no. Certo, e per quanto riguarda l'espressione che ha usato, ha detto emerge una preoccupazione sensata. La preoccupazione sensata ci ricollega al MeToo. perché diciamo e si è scatenata anche un'ondata moralistica, non da parte delle donne. La protesta delle donne viene sempre strumentalizzata, c'è sempre qualcuno che la usa, la tira da una parte o dall'altra, e in questo particolare frangente la componente moralistica è stata molto forte. Poi sono state prese, diciamo, delle misure nei confronti di uomini, certo potentissimi e ricchissimi, che quindi hanno lo strumento per difendersi, però senza passare da un tribunale, senza un giusto processo, insomma. Più non tanto il MeToo, ecco, la preoccupazione sensata che io ho trovato nel manifesto delle francesi, che poi di cui Catherine Deneuve era una delle firmatarie, ma per esempio una delle scrittrici è una psicanalista, c'era insomma questa preoccupazione di non andare sul versante moralistico. Sì, e parlando sempre del movimento MeToo, la lettera sempre di cui stiamo parlando dice che insomma si rischia di fare confusione tra il corteggiamento maldestro e l'aggressione sessuale, che bisogna lasciare agli uomini la libertà di importunare in difesa appunto di questa libertà sessuale, come diceva lei. Però ecco, nei casi di violenza sulle donne la tendenza, invece che la tendenza a leggere il corteggiamento spinto come una molestia, c'è piuttosto la difficoltà a riconoscerla, la violenza. A questo proposito, quali sono i segnali di una relazione violenta che devono far scattare l'allarme in una donna? Dunque, intanto solo una battuta sulla libertà di importunare è proprio l'espressione più stupida, diciamo, e assurda di quella lettera, perché anche la zona grigia è una zona, la zona grigia è diversa dalla zona nera, chiamiamo così la zona nera, quella dove la violenza è evidente. La violenza può essere però psicologica, quindi un uomo che dà del cretino continuamente alla moglie, un disprezzo continuo, non dico che ogni tanto si litiga. In genere parliamo di violenza domestica, intrafamiliare, violenza economica, donne che non hanno accesso al conto, che non hanno e che non lavorano perché sono, diciamo, il marito gli ha impedito di lavorare, che dipendono ogni giorno dai soldi che gli dà il marito, per esempio. La violenza fisica si riconosce, e la violenza, come dire, forse la più difficile su cui bisogna lavorare con le donne con molta attenzione è la violenza psicologica, perché quella è più faticosa da riconoscere in un senso o nell'altro, si può esagerare, cioè si può sopravvalutarla o sottovalutarla. E come ultima domanda volevo chiederle una sua opinione sul movimento MeToo. Se questo movimento fa bene al movimento delle donne e alla lotta contro la violenza sulle donne, oppure le vittimizza eccessivamente? Allora, io MeToo mi ha sollecitato molto, perché non mi aspettavo sono rimasta stupita quando è esplosa la notizia, e soprattutto sono rimasta stupita dalla polemiche molto accese che si sono sviluppate tra le donne e tra gli uomini e le donne. E allora mi è venuta voglia di scrivere, ho scritto un testo abbastanza breve, che verrà pubblicato tra un paio di settimane dall'editore Tombolini, perché avevo una necessità di richiamare un aspetto. Nessuno cita mai, in tutte le discussioni e le polemiche, si ricorda di citare che noi comunque viviamo in un patriarcato un po' in crisi, certamente non feroce come in Iran, però viviamo in un patriarcato, e quindi tutti i movimenti delle donne vanno letti dentro questa cornice teorica, se no si diventa eccessivamente severi, perché appunto MeToo è stata una denuncia andata su internet, quindi non è una denuncia che va nei tribunali, i social l'hanno ingigantita. quindi si può vedere tutti gli effetti pericolosi di una cosa del genere, ma bisogna anche vedere tutto l'aspetto positivo, perché il problema è che in genere le donne non denunciano, e il fatto che denuncino è un evento straordinario. Spire on the steeple, but God's work isn't done by God, it's done by people. And up, up, up, up, up, up points the fingers of the trees, and the lumberjacks with their bloody axes are on their knees. And just when you think that you've got enough, enough grows, and everywhere that you go in life, enough knows. Up, up, up, up, up, up dances the steam from the sewer. She rounds the corner, the brutal wind blows right through her. And up, up, up, up, up, up raises the stakes of the game. Each day sinks its footprint into her clay, and she's not the same. And just when you think that you've got enough, enough grows, and everywhere that you go in life, enough. And half of learning how to play is learning what not to play. And she's learning the spaces she leaves have their own things to say. And she's trying to sing just enough so that the air around her moves, and make music like mercy that gives what it is and has nothing to prove. She crawls out on a limb and begins to build a home, and it's enough just to look around and know that she's not alone. Siamo ritornate in studio molto velocemente perché è arrivato il momento dei saluti, e prima di salutarvi vi ricordiamo che se volete partecipare con i vostri commenti e le vostre riflessioni alle tematiche di cui abbiamo parlato in questa puntata, potete farlo seguendoci sulla nostra pagina Facebook Frequenze Sui Generis, e saremo liete insomma di ospitare tutti i vostri commenti e le vostre suggestioni. E nel salutarvi vi diamo appuntamento a lunedì prossimo sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko, sempre dalle 14:30 alle 15:00.